Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Gli italiani sono da sempre un popolo di emigranti, ma i motivi che oggi spingono migliaia di giovani italiani a lasciare il loro paese non sono gli stessi delle generazioni passate. Alcuni parlano, spesso con toni allarmistici, di fuga di talenti o di brain drain. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avete appena ascoltato l'interessante produzione video di Quattro Gatti intitolata La fuga dei cervelli, video online che ben spiega il fenomeno concentrandosi sui fatti e lasciando da parte la troppa e deviante retorica accumulata nel corso degli ultimi anni. Rimanete assolutamente sintonizzati oggi sulle nostre frequenze. Abbiamo numeri esclusivi davvero clamorosi proprio sulla fuga dei talenti che ascolterete tra pochissimo. Ora però, come ogni settimana, andiamo a conoscere la protagonista della puntata di questo sabato. Ho imparato a supportare il mio staff. Ogni giorno qui ti gratificano, ti ringraziano ogni giorno per quello che fai. Letizia Sirtori, 32 anni, è International Tourism Sales Manager per Washington DC, l'ente del turismo di Washington. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Prima però concludiamo la rassegna del mese di luglio, nel corso della quale abbiamo ripercorso i numeri della nuova immigrazione professionale dall'Italia. Lo facciamo con un'ultima intervista che riguarda un fenomeno che andremo ad approfondire il prossimo mese di agosto, il fenomeno dei controesodati, coloro cioè che scelgono di tornare in Italia rientrando dall'estero. Fenomeno ancora piccolo numericamente, ma che si è avvalso di una legge ad hoc, la 238/10, meglio nota come legge controesodo, che ha fatto registrare già risultati interessanti nel 2011, primo anno di applicazione della normativa. Ne abbiamo parlato recentemente con Guglielmo Vaccaro, ideatore di Controesodo, scoprendo come ad aver approfittato della normativa siano state soprattutto le donne. Secondo dati dell'Agenzia delle Entrate, 3.838 cittadini sono tornati 2 anni fa con gli sgravi fiscali previsti. Oltre 3.500 sono lavoratori dipendenti, 262 gli imprenditori o i lavoratori autonomi. Quasi il 60% sono donne. Il deputato PD Vaccaro. Sono la testimonianza di un successo, di una legge che ha funzionato e che continuerà a funzionare a ritmi impressionanti che hanno superato di gran lunga anche le aspettative di noi proponenti. Bisogna rendere permanente questo strumento e accompagnarlo con altre politiche che possono accelerare la mobilità dei talenti. È impressionante notare come se espatriano di più gli uomini, in questo caso nel rientro sui dati di controllo esodati sono le donne a farla, diciamo, da padrone. Come leggere questo dato? Ve l'aspettavate? Le donne anticipano una tendenza, hanno probabilmente studiato prima e meglio la legge, gli uomini seguiranno, ma c'è da dire che nella legge c'è una preferenza in termini di tassazione che privilegia le donne, che pagano solo sul 20% dei redditi futuri per 3 anni, a differenza degli uomini che pagano sul 30%. Quindi la politica di genere trova un riscontro negli effetti che la legge ha prodotto. La legge è pienamente operativa, potremmo dire, da più di 2 anni ormai. Avete riscontrato sia, diciamo, tra i nostri professionisti espatriati, ma sia soprattutto tra le aziende qui in Italia, una sensibilizzazione, cioè conoscono la legge, sanno come usarla? I numeri ci dicono che la legge è conosciuta ed utilizzata. Molte volte ci capita di doverla spiegare ex novo e quindi ci accorgiamo che c'è un margine di crescita di questo fenomeno di attrazione importante. Enrico Letta è stato il primo firmatario della legge contro esodo, il PD e il PDL l'hanno portata avanti assieme, ora Enrico Letta è premier. Da dove intendete ripartire? Come intendete portare avanti questo discorso di riattrazione del nostro capitale umano e di circolazione dei talenti in Italia? Sicuramente ci sarà la possibilità con questo governo, con le larghe intese, di completare il pacchetto controesodo con ulteriori incentivi a chi va all'estero a formarsi, a qualificarsi, a professionalizzarsi per poi rientrare un domani nel nostro paese arricchendo la nostra economia con nuove capacità e nuove competenze. Lo faremo presto insieme al Premier che, come lei ha ricordato, è il primo firmatario di questa buona pratica di collaborazione che nella legislatura scorsa abbiamo avuto. Speriamo di poterlo fare anche grazie a chi è rientrato che presto incontreremo in una convention. Avete già qualche misura concreta in mente per questa legislatura? Sicuramente nella battaglia globale sui talenti c'è da riequilibrare in termini di arrivo da parte di talenti stranieri sul nostro territorio. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta oltreoceano, East Coast americana. Mai come in questo caso possiamo annunciare destinazione Washington. Nome: Letizia. Cognome: Sirtori. Età: 32 anni. Città di origine: Carato Brianza. Studi: laurea quadriennale in scienze del turismo e un MBA negli Stati Uniti. Anno in cui hai lasciato l'Italia: nel 2005. Per andare dove? Prima Miami, poi Washington DC. Perché? Per un master. Quale lavoro svolge attualmente? Sono responsabile del marketing internazionale per la città di Washington DC. Dove? A Washington. Tornerai? Torno a fine mese, ma non rimarrò. Non mi ritengo speciale, come me ce ne sono tanti, ognuno con una storia diversa ma con un medesimo filo conduttore. Siamo quelli che hanno avuto le palle di andare via, di rischiare e di restare in un paese che non è il nostro, che ci considera stranieri, ma che dal punto di vista del lavoro e della carriera sicuramente è pronto a investire anche tanti soldi, perché riconoscono che la nostra preparazione è nettamente superiore a quella degli studenti locali. Letizia, così scrivevi qualche mese fa a giovanitalenti@radio24.it e io ti chiedo: l'unico modo di dimostrare il proprio valore, di far valere la propria personalità, dignità oggi è emigrare dall'Italia? Nel mio ambito almeno credo di sì, perché nel settore parastatale spero però che qualcosa riesca a cambiare nei prossimi 3-5 anni. Nella tua premessa colgo anche una sfumatura d'orgoglio. Noi abbiamo avuto le palle di andare via, scrivi. Manca coraggio, ti chiedo, tra chi resta, ci si lamenta e basta, senza provare ad andare fuori, da soli a misurarsi col mondo, sperando sempre che qualche amico o parente ci sistemi? Questa espressione è più riferita al salto nel buio di tutti quelli che vanno molto lontano, e intendo più di 6 ore di volo da casa, dove non è semplice tornare nel weekend. Non è per tutti amici che hanno avuto le palle di rimanere in Italia, e discutiamo molto spesso di queste scelte differenti. È vero, ci sono anche ma loro. L'alba del vicino è sempre la più verde. I tuoi studi ora, laurea quadriennale in scienze del turismo allo Yulma di Milano, che in realtà consegui in soli 3 anni e mezzo, cosa ti ha portato sulla strada del turismo? Quale passione? Curiosità di conoscere, far conoscere ciò che sta al di fuori del nostro piccolo microcosmo in cui cresciamo. E come molti protagonisti di Giovani Talenti, fin da studente trascorri lunghi periodi all'estero, 9 mesi all'Università di Vienna, grazie all'Erasmus, 4 mesi alla Kunsthalle Wien, col progetto Leonardo, questo tra il 2001 e il 2003. Quale valore aggiunto ti hanno dato queste esperienze? Non solo in termini di apertura mentale, ma anche di crescita professionale. Mi hanno insegnato ad assumermi delle responsabilità e degli incarichi, e al tempo mi ha dato un notevole vantaggio per poi la mia carriera futura. Ti sei laureata con 110-110. Che voto dai invece tu all'università italiana, sulla base anche del confronto con quelle straniere che poi hai frequentato? Un 70 ha il potenziale di arrivare al 110 e lode, ma non c'è lo stimolo per farlo, purtroppo. Si investe su menti brillanti che però alla fine sono costrette quasi a scegliere altre mete a causa di mancanza di supporto. Infatti il voto all'università italiana non può sicuramente trarre giovamento dall'esperienza di placement post laurea che hai fatto. Ti hanno trovato infatti un solo stage, uno solo, in un'azienda milanese, un'azienda dall'etica professionale inesistente, ci scrivi. Ci resta lavorare una settimana, e nel concreto come si è concretizzata questa etica inesistente? Non c'era trasparenza a livello di business di quello che svolgevano e non ho voluto avere il mio nome associato a questa società. In modo molto semplice: prima di partire per gli Stati Uniti fai altri tentativi per cercare impiego in Italia, trovando lavoro con un tour operator che ti manda a lavorare poi nel settore alberghiero in Egitto e in Messico. Che idea ti sei fatta, ecco, per riassumere in concreto del mondo del lavoro della penisola nel settore turistico? Io il lavoro sono stata fortunata, l'ho trovato subito, mi sono dovuta accontentare, però per l'inizio insomma mi sono accontentata per far gavetta, ma sapevo che non volevo rimanere. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Dall'agosto 2005 risiedo negli Stati Uniti. Avevo già in mente di fare un master oltreoceano. L'università americana mi ha concesso una borsa di studio con lavoro on campus solo per merito. Poi, grazie al servizio placement, ho ottenuto un lavoro presso una grande azienda italiana che aveva sede a Miami. Racconti a giovanitalenti@radio24.it. Allora, Letizia, per paradosso, all'estero hai trovato più aiuto e sprone ad andare avanti per la tua strada rispetto all'Italia? Basta dimostrare solamente di essere bravi e di avere davvero voglia di mettersi in gioco? Sicuramente qui la competizione è molto alta, gli americani hanno la competizione infusa nel DNA, quindi se uno straniero vuol farsi valere deve imparare ad aprire la bocca, esprimere le proprie idee e farsi riconoscere subito. In quale materia hai conseguito il master alla Florida International University e perché hai scelto, toglici la curiosità, proprio Miami? L'università non era stata la mia prima scelta, ma tra le 5 in cui sono stata accettata è quella che mi ha fornito assistenza economica e la possibilità di ottenere 2 titoli di master grazie ad un programma congiunto. Ho dovuto dare un po' più esami, ho un MBA, un Master in Business Administration e un Master in Hospitality Management. Vorrei anche premettere che tu provieni da una famiglia assolutamente normale. Quanto è stato difficile per te sudarti ogni piccolo singolo avanzamento di studi e professionale facendo tutto da sola, maturando forse anche la consapevolezza che il nostro, e lo dico con amarezza, si è ridotto a essere un paese per figli di... Vorrei precisare che senza la mia famiglia non sarei andata da nessuna parte. Come ho detto, mio padre è un elettricista, mia mamma è una casalinga, non hanno lauree, però mi hanno sempre spronato a seguire i miei sogni, a far sacrifici. Abbiamo fatto sacrifici tutti insieme per permettermi di arrivare dove sono. Ma secondo te questo è un paese con l'ascensore sociale bloccato oppure no? Sì, purtroppo i figli di ci sono dappertutto. Però negli Stati Uniti i figli di, se non rendono, sono fuori. E in Italia sono dentro. Attenzione ora, 2 settimane dopo la fine del master ti arrivano 5, e ripeto, 5 offerte di lavoro stage retribuiti. Prima esperienza di 3 mesi all'ente ufficiale di promozione del turismo americano nel 2007, poi l'offerta presso la tua attuale azienda Destination DC, ente del turismo di Washington. Cosa vuol dire, Letizia? Sapere di essere assunti solo grazie al curriculum, sapere che un ente straniero ti offre la possibilità di crescere professionalmente puntando su di te. Quanta dignità c'è nel poter affermare: mi considero semplicemente brava. Sono molto orgogliosa. I miei genitori mi hanno insegnato l'umiltà, però ogni tanto bisogna ammettere di essere soddisfatti ed è gratificante per me essere considerata parte di questo team. La prima promozione a Destination DC è arrivata dopo soli 6 mesi, poi mi hanno sponsorizzato il visto di lavoro, ora anche la green card americana, aggiungi. E di cosa ti occupi esattamente adesso? Mi occupo di marketing internazionale, sviluppo nuovi mercati esteri per promuovere la destinazione Washington DC a livello turistico. E vogliamo aggiungere anche a corollario qual è l'ambiente di lavoro con cui ti confronti quotidianamente in termini di gratificazione? Ho imparato a supportare il mio staff ogni giorno qui, ti gratificano, ti ringraziano ogni giorno per quello che fai. E non è poco. Non è finita qui. A 32 anni, esperta internazionale di turismo quale sei, 6 lingue parlate, laurea e master vero, provi a bussare alla porta dell'ormai ex patria mondiale del turismo, l'Italia, e cosa ti senti rispondere? Cosa ti hanno detto quando hai chiamato l'ENIT, l'ente ufficiale del turismo italiano? In realtà non ho ricevuto nessuna risposta. Non mi sorprende. L'ho contattato varie volte, la prima quando ero ancora a Miami perché dovevo svolgere un'esperienza di tirocinio obbligatorio, nessuna risposta email, nessuna risposta telefonica. Poi l'ho contattato una volta laureata, nulla, e infine nel 2010 quando pensavo di ritornare in Italia perché stanca della vita americana, e avevano delle posizioni aperte, non mi è arrivata nessuna risposta e lì ho usato delle conoscenze. Ahi, anche tu? Sì. Ogni volta che provo... Anni di lavoro si fanno, no? Sì, dipende appunto dal tipo di conoscenze e come le si usa, ma la domanda è: ogni volta che provo a rientrare, dici, nessuno sembra abbia interesse ad avermi, denunci, contatti il settore turistico della tua regione, a Lombardia, poi l'Expo di Milano, e cosa ti senti rispondere? Che sono troppo qualificata di rimanere dove sono e per l'Expo mi è stato consigliato di mandare il curriculum sul sito, ma ovviamente sappiamo che il sito viene fatto, quei curriculum chissà chi li guarda. E non finisce qui. Come va a finire quando 2 aziende italiane ti fanno un'offerta? Qual è la frase che chiude ogni trattativa con loro? Sicuramente non sarebbero stati in grado di pagarmi quanto qui, pur non sapendo quanto io guadagni. Quindi si sono tirati indietro e non mi hanno nemmeno fatto una proposta concreta quando gliel'ho chiesta. E tu come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia è stupenda per le vacanze. Scherzi a parte, l'Italia come paese purtroppo non viene preso molto sul serio all'estero. Gli italiani però continuano ad essere amati e stimati. Quindi secondo me bisogna investire davvero, investiamoli davvero questi soldi sui giovani senza continuare a parlare alle elementari. Però siamo molto orgogliosi come italiani, ce la possiamo fare, possiamo ricominciare, però bisogna dar fiducia davvero ai giovani, non continuare a dirlo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Letizia Sirtori, 32enne International Tourism Sales Manager a Destination DC, l'ente del turismo di Washington. Letizia consegue in soli 3 anni e mezzo la laurea in scienze del turismo, tuttavia nonostante le precedenti esperienze di studio e lavoro in Austria, in Italia l'unico stage lavorativo proposto dall'università la indirizza verso un'azienda milanese dall'etica, dice lei, professionale inesistente. Letizia non ci sta, se ne va dopo una settimana. italiana prende il volo verso l'estero lavorando per un tour operator. Nel 2005 si iscrive a un master in turismo all'Università di Miami, avvalendosi anche di una borsa di studio e delle possibilità di lavorare in università. Al termine del master, Letizia riceve ben 5 offerte di lavoro, coglie quella all'ente ufficiale di promozione del turismo americano prima di dirigersi a Destination DC, dove lavora tuttora. Dalla capitale americana Letizia si chiede incredula come il suo paese, l'Italia, risponda a picche a tutte le sue richieste di rientro lavorativo. E increduli, credeteci o no, lo siamo anche noi. Ci raggiunge ora in linea Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Albonetti, le aziende italiane sembrano non avere interesse ad investire sui propri dipendenti, non considerano la persona come un asset, ci scriveva Letizia a giovanitalenti@radio24.it. Se magari provassimo a ripescare giovani professionisti con solida esperienza internazionale, anziché chiuderli le porte in faccia, potremmo, secondo lei, recuperare un peso strategico in un settore così internazionale e cruciale per noi come il turismo? Ma certamente. Letizia ha detto una cosa molto bella e molto interessante. Gli italiani all'estero sono amati e stimati. Questo è senz'altro una cosa importante. Cosa rende diverso il mondo economico e turistico italiano dall'estero? Che in Italia la politica si interessa troppo dell'organizzazione del turismo in quanto fatto tecnico. Un giovane capace in Italia viene visto come una minaccia e gambizzato, all'estero viene valorizzato. Come dire, a 40 anni negli Stati Uniti si può essere presidente degli Stati Uniti, in Italia se non hai 70 anni non ci devi nemmeno pensare. Però dovrebbe partire forse, dico anche voi, suggerisco anche voi, lo slancio dalle aziende a cercare di recuperare questi talenti, questi professionisti che abbiamo fuori? Sì, questo senz'altro, però c'è un problema preliminare, secondo me, che in questo paese nell'organizzazione del turismo ormai la preeminenza ce l'ha la politica e non più l'impresa. Concretamente cosa significa? Che decide la politica? Esatto, decide la politica. Lei consideri che ci sono sul territorio 13.500 strutture di disorganizzazione pubblica del turismo in questo paese, con le imprese sempre più annichilite e piegate sotto oneri non più sopportabili. In questa maniera fare impresa in questo paese è veramente difficile. E in un vostro recente comunicato stampa avete evidenziato la crisi che vive il comparto turistico. Nei primi 7 mesi 2012 l'Italia ha registrato un calo del 6,6% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze. Paghiamo dunque anni di vuoto cosmico in termini di strategia dell'industria turistica. Ricordiamo solo che nel 1970 l'Italia era la prima meta turistica mondiale e in 40 anni siamo finiti al quinto posto dietro Francia, Stati Uniti, Cina e Spagna. Nessuno di questi paesi vanta le nostre bellezze, questo è l'incredibile. Abbiamo dormito sugli allori? Mi permetta di correggere una svista giornalistica. Noi al primo posto non ci siamo stati mai, in realtà. Al primo posto ci sono sempre stati in maniera stabile gli Stati Uniti d'America, ma quello è un continente, per cui possiamo ben dire di essere stati buoni secondi, come dire, ma per noi era un risultato fenomenale. Questo l'abbiamo trovato nelle classifiche, poi probabilmente c'è la differenza tra continente e paese, però mi fido ovviamente certo, di lei. Certo, non è che abbiamo dormito sugli allori, il turismo è stato scoperto dalle imprese. Quando le imprese hanno dovuto subire una presenza troppo asfissiante della politica nell'organizzazione del turismo, è successo quello che è successo. Dobbiamo riportare l'impresa al centro della questione. Letizia, hai una domanda per Albonetti? Ho notato su entrambi sul sito dell'ENIT, so che è entrato nel CDA, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, dottor Albonetti, non c'è nessun link per lavoro, carriera, per possibilità di sapere che tipi di lavoro ci sono nel turismo e nemmeno sul sito dell'assoturismo, come mai? Il 10 di questo mese sarà la mia prima riunione del consiglio di amministrazione dell'ENIT e sicuramente questo sarà un ottimo suggerimento che lei mi sta dando. Devo dire una cosa, l'ENIT purtroppo in questi ultimi anni ha subito una riduzione di risorse importanti, in pratica le risorse presenti servono sì e no per coprire i costi incomprimibili, i costi fissi. È logico che tutto questo va valorizzato, rivitalizzato. Adesso, come lei saprà, potremmo contare su una squadra di prim'ordine. Il presidente è il direttore generale della LUIS, Celli. E quindi io suggerisco cominciamo anche a livello web a reclutare i migliori. Questo già è un buon punto di partenza, se possiamo. Beh, voi saprete che fine ha fatto il famoso portale dell'Italia. Caliamo un velo, stendiamo un velo pietoso. Sì, stendiamo un velo pietoso, perché dopo milioni e milioni spesi non è riuscito ad approdare a niente. Ecco, Albonetti, io devo fare anche un po' la parte del diavolo, però, perché leggendo anche sui forum, parlando con gli stranieri, spesso c'è una lamentela sul rapporto qualità-prezzo delle nostre strutture alberghiere e anche il rinnovamento delle strutture o delle infrastrutture. Cioè, venire in Italia, per chi è straniero, spesso riserva una amara sorpresa. C'è anche una nostra responsabilità, anche vostra in qualche modo, di non essersi adeguati ai tempi? Vede, il turismo nasce nel nostro paese come fenomeno di massa circa 50 anni fa. In quel periodo, in un periodo che va dai 50 ai 40 anni fa, nascono la maggior parte delle 34.000 strutture ricettive presenti oggi nel paese. È evidente che dopo tanto tempo questo sistema va rivisto, rivitalizzato, ma anche per motivo che le dicevo prima, ossia che non entra sangue fresco in questo paese, nel senso che le grandi catene non scendono in questo paese, non investono in questo paese, la riqualificazione del sistema è piuttosto lenta. Grazie a Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo. E domanda finale, diritto a Letizia Sirtori: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di crearsi le proprie occasioni e le proprie opportunità, di non partire allo sbaraglio, ma avere un piano B, C e D, e di informarsi prima di partire su come ottenere visti, su cosa si vuole fare, contattare le comunità italiane all'estero, le associazioni, e magari fare una prova di 3 mesi, portarsi qualcuno insieme, vedere se uno ce la può fare veramente. Volevo soltanto ringraziare e salutare tutte le persone che stanno festeggiando per il loro lavoro, cioè tutti gli italiani che se ne sono andati dall'Italia e hanno trovato un posto di lavoro. Pensate, c'è gente che se n'è andata in Inghilterra, gente che se n'è andata in Francia, io ho amici che sono andati in Germania, in Oceania, in Australia, in America, qualcuno è andato in Honduras, sono 10 e sono quelli che stanno facendo la fame, ma per il resto la gente che se n'è andata fuori, insomma, non se la cava male. È per questo che io volevo ringraziarli con un pezzo che sarà impreziosito dalla presenza di un inglese che sta arrivando qui in Italia, Mr. Tony Hadley. E voglio vedere un tappeto di mani. A malinconia, tutti nell'angolo, tutti che piangono, toccano il fondo come la chi lavora non tiene dimora, tutti in mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bona. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo era il bel paese laddove si suona. Per pagare le spese basta un diploma, non fare la starolicona, né buttarsi in politica con i curricula presi da stalle di lona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona. E poi se ne vanno tutti, ma da qua se ne vanno tutti, e poi se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. È in uscita Emergency Exit, documentario che racconta le storie di giovani italiani emigrati per realizzare le proprie ambizioni professionali. Un documentario che ha raccolto fondi online, sul web, grazie alle donazioni di gente comune e che ha trovato persino finanziatori americani. Brunella Filì, autrice e regista di Emergency Exit, ci racconta il progetto. Emergency Exit racconta le storie di una generazione che forse è un po' dimenticata, quella dei giovani italiani, talenti italiani che sono costretti ad andare a lavorare fuori perché vengano riconosciuti i loro meriti. E quindi è un viaggio in Europa che ascolta le loro voci, vive con loro la quotidianità. Cosa vi hanno raccontato? Ci hanno raccontato un po' cosa gli manca. Diciamo che le storie che abbiamo raccontato sono un po' di rimpianto, ecco, c'è una forte voglia di stare in Italia, però non a tutti i costi, assolutamente, solo a determinate condizioni che all'estero in questo momento ci sono. Cosa li hanno fatti fuggire dall'Italia? Ecco, le principali cose che mi raccontano sono appunto questa scarsa meritocrazia, nel senso che in Italia molto spesso conta più chi sei che quello che sai fare, e questo all'estero non è così. Nella maggior parte dei casi all'estero vieni riconosciuto, cioè quello che sai fare ti viene data la possibilità di farlo senza troppe storie, ecco. E poi soprattutto quello che mi chiedono loro: non vogliono grandi ambizioni, grandi carriere, ma una vita normale, un lavoro, la possibilità di farsi una famiglia, essere adulti. Sarà un documentario con la raccolta di queste storie, queste testimonianze? Sì, questo è un progetto che nasce come un documentario della lunghezza di un'ora circa, però stiamo cercando di trasformarlo anche in un format a puntate, perché sono così tante le storie che ci stanno arrivando attraverso il nostro sito emergencyexit.it e che quindi ancora di più vogliamo raccontarle. Quante ne racconterete alla fine? In questo documentario ce ne sono principalmente 6, in 6 grandi città, però vorremmo, il nostro piano è anche di andare negli Stati Uniti, perché lì è una meta veramente dove il merito degli italiani è tanto riconosciuto, e anche in Australia ci piacerebbe. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.emergencyexit.it. Un motivo per restare o tornare. È stato pubblicato a fine febbraio il decreto interministeriale sull'impiego a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'agevolazione è destinata all'assunzione da parte delle aziende di persone con titolo di dottore di ricerca. L'incentivo è pari al 35% di tutti i costi aziendali sostenuti per il lavoratore, fino a un massimo di 200.000 euro l'anno. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti, o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è Sia il Talento. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione la lancia il nostro ascoltatore Giampiero con la seguente proposta: come dare un'opportunità ai giovani, favorire il ritorno in Italia dei talenti e cambiare la classe dirigente della pubblica amministrazione? Occorre prevedere che i dirigenti, direttori e amministratori di nuova nomina dimostrino nel curriculum almeno 2 anni di lavoro all'estero, almeno in paesi del G20. La condizione deve essere obbligatoria e imprescindibile, propone Giampiero. Siete d'accordo? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.